feel a certain way about that. Thank you. fattura di guardare la pompetta da dove arriva, se esce benzina, togli dal carburatore, se la benzina arriva fino a lì. Poi dal carburatore, se non la manda al cilindro, allora devi smontare il carburatore e pulire il carburatore. Guarda che anche il carburatore dove entra la pompetta c'è un altro filtro là dentro, c'è una vite, perché quella cosa meccuccia dove entra la pompetta, all'interno c'è un altro filtro. Niente è strano, bisogna controllarlo, pulirlo tutto, mettilo un bicchiere, diciamo, anche di plastica dura o in vetro che non serve, vecchio, un po' di benzina con pennellino, come svuoti il carburatore e pulisci tutto quanto. C'è quello di Biela Protorce che è bravo, dopo il tabacchino, io ci voglio raccontare, molto è bravo. Oppure un altro mi aveva detto Manuele, la via non la metto che via, però quando ero andato con lo scooterone mio, dice no, io chi c'è non è pozzo, era la via delle luci. E poi c'è l'Alla Moto, lo conosci? E beh, caro, uno dice, Già conosco anche quel ragazzo che ha lavorato da lui. Io moto, niente, ne avevo due moto, Suzuki 600, l'altro con Honda Scooterone, Forza 250, e poi dopo che è giunto un incidente me l'ha già venduto e ci sono via luci. Ma io ho detto quel 50, ma per me va bene, però da fare in commissione. Che avevo ho già botto smottonato, ma non ho già bottonato, perché io ne avrei due, poi la coppia me l'avevo lasciata in macchina, io ero un'altra macchina, poi che casino. Io cioè stamattina non c'avevo la coppia, però c'avevo il vestito, era sul lato, perché se avevo due calafrici, stavo la palazzinellata, il vento non è che entrava molto, e quindi ho sudato la picchia. Beh, a proposito, come stai tu? Era tua metà? Io adesso meglio, la verità. Me l'ha fatto più di 20 giorni, tosse, cattava, tosse, raffreddore, di tutto. Finché non mi ha dato il medico, un medicinale, grazie a Dio mi è passato subito tutto, se no ero quasi più di un mese. Ma vedo se è rientrato Antonio? Niente, se non mi ha tornato, si è spostato, è tornato subito. Sì, già sta rientrando al limite, non è quello il problema. Ah, io non avevo già un po' di giorni che non entravo perché sono riuscito tra bocchi e tre macchine al conto mio. E sempre per piglia di sasso, una parte all'altra, basta, arrivo il cracco, manco baracchia, sentivo Antonio, nulla. Buono 4-5 giorni senza entrare. E io sono un mesetto forse, la verità, forse un mesetto so. Da quando mi avevi chiamato tu al telefono, che mi sembra ci avevo sentito due giorni prima, se non ricordo male. Poi ti ho chiamato la persona e mi ha detto, guarda, non sto neanche più entrando. Dice, guarda, non ti hai perso niente. Ok, allora sono a posto, non c'è problema. E vabbè, che cosa mi fa? Vabbè, quello sì. Già è vero. Mi sono fatto due dita grandi, giganti, belli di passaforte. Una l'ho chiusa ermetica con il suo tappo originale, messa in freezer, quando si è raffreddata, l'altra in forno. Casina, pasta al forno. L'ultima volta ho mangiato pasta al forno io, quella di Rospì. Dopo 10 minuti a diarrea sono andato. Ecco, ma forse è disposto, dai. E cosa ne so, guarda. Ho fatto in tempo a scendere a pranzo, a fare le scale, scendere giù al portone e mi è arrivata questo mal di pancia veloce, non riuscivo neanche a salire. Mi sono dovuto cambiare tutto, hai capito, con quella pasta al forno. Ma è più pasta al forno del Rospì. Ma io ho preso soltanto le spiglie, le sfoglie all'uomo, quelle fresche. Tutto il resto poi il sugo l'ho preso alla Conad, mozzarella, formaggio, prosciutto, tutto a posto. Niente, cosa ti dica? Non è la prima volta che lo faccio. Oggi mi è venuto lo schizzo di farlo, ma lo posso. L'altro la c'è frizza perché quello lì era tracadda, se ne ho voglia, ma la sbrino me lo faccio al forno di nuovo. Tanto è già precotta, quindi. Ah beh, quello sì. Allora tu c'è una volta con la... una volta ha pigliato quella piccola e ha fatto male a Simona e l'ho presa per i fondelli. Poi ha fregato a me, ho mangiato quella grande e meno male non sono andato a posto, dovevo scendere giù in garage e me la stavo facendo addosso, sto dicendo, se no sto sento con il culo stretto, figurati. Ma tu hai preso quella che sono già in teglie pronte? Quelle che sono già precotte, già lo sai, già lo spiego, quelle grandi da un chilo ho preso. Quelle già pronte sono a scaldare e mangiare, giusto? Sono ritornato. Esatto, no, quelle lì ho preso. Ciao Anto. Ciao Anto. No. Io la faccio io in casa, capito? Non ne compro quelle già fatte. Uffa, cari dai. Forse ti ha fatto male pochissimo. Avanti Anto. Voglio che ti sento. Quanto che segnale? 9:15 sera di 5. Più forte di me sei lì. Anto, più forte di me. Antonio, quanto arrivo io? 9:10 sì. Provate tutti e due a parlare che sento. Di tutti e due. Dai, 1, 2, 3, prova di modulazione e cambio. No. Anto, sono i passi tuoi di radio. siete uguale il segnale, ma la radio è molto più forte della tua. La radio vuol dire tutto. Vabbè, ma se Antonio piazza l'altro, sta tranquillo, te ne fa la canna. Perché tu pensi che io non posso piazzare qualche altra cosa? E gli faccio le gambe, la canna e la testa. No, non so questo cosa c'hai del resto. Lui c'ha l'apparecchio grosso della massa tipo mia. Non so, io ho 5 watt, Antonio, cosa vuoi pretendi? Io ho il Galaxy Book, cos'è c'è massimo 10 watt e book? Quindi, ma Antonio c'ha l'altro, c'ha, come quello che ho io, simile. Lui c'ha, se mi ricordo, il 440 o il 430, adesso non mi ricordo. 440 c'è Antonio. Sì, c'è Antonio, non lo faccio più. E perché non ce l'hai più? Perché non è tutto, perché adesso non lo farà più da più. Ho capito. C'è un ordine che non l'ha più quindi, sa parecchio. No, c'è un nuovo superstaccio. Ma c'è la spintarella. Cos'è Roma, Anzone, Santiago Nuve, poi ci è arrivato Nuve e Vite il Goipo. Antonio, fai da bravo. Si dico le bugie. Ma come è stato il radio adesso? A voglia. Ho fatto un po' da tanto. Oh, scusate che forse dovevi spegnere il forno della pasta al forno, sennò mi si brucia tutto. Oh, rientro subito. Sono influenzato, cosa lavoro? È un casino, cazzo. Sono già più di 20 giorni che sono tra raffreddore, catarro, tosse. Più di 20 giorni sono, guarda. E mi ha detto che mi vuole, è capito un vero che rientra a lavorare. Adesso ad aprile, fine marzo o aprile cominciano, hai capito? I festeggiamenti tra una cosa e l'altra, chi laurea, chi quello, chi quell'altro, chi si faceva la pasquetta in campagna, hai capito? Il discorso è quello, il fatto è che anche la temperatura, cioè non lo puoi fare una dentro casa a festeggiare. Bello sarebbe festeggiare, per dire, la pasquetta, una bella giornata calda, 20-22 gradi, allora sei tranquillo. Purtroppo non si può fidare neanche del tempo, il discorso è quello lì. Ah, ho capito, quindi stai cercando lavoro anche tu allora. Neanche più cose mobile stai facendo, ti ha proprio eliminato. Come è andata tua figlia, ha detto, fa la cosa, allagnati, ti ha detto, e passa buona festa, e tutti fanno così. Vabbè, ma ti poteva anche tenere, dato che non è quello il problema, capito? Non so che ci sono dei problemi, dovete fare i turni per la notte, eccetera, eccetera, quindi non è che puoi stare sempre al lavoro così. Quando c'è un figlio di mezzo, una figlia, purtroppo c'è quel problema lì. Non si poteva tenere già, non è stato un cane morto. Mia memmi. Io sempre la stessa storia. Non sto lì a elencarti i problemi, ma è sempre la stessa storia. Il problema che sta a dire a qua. Non ti voglio raccontare nulla, perché c'è sempre la stessa storia. Per quello non avevo, tengo un buon rapporto. Tempo stata così ed è finita. Perché inizio che io vado a lavorare è sempre la stessa storia. vabbè, almeno non l'ospite la Ricini, almeno quella ce l'hai, sì. Ho detto, almeno non l'ospite già la Ricini, quello già dovresti avercela tu. La Laspi, quella che una volta che uno sta lavorando che poi risulta disoccupato si è assicurato, tirano la Laspi ogni mese, tirano, capito? Più ci sono gli assegni familiari, assegno unico, eccetera, eccetera, e quindi finché non ti trovano un altro lavoro sei tranquillo. Vabbè, ho capito, i principali sono tutti uguali, eh. Tutti non ti preoccupare, se tutto a posto, se tutto a posto, poi magari nel momento che te ne fai, vai e scopri, per tanto per dire non ti ha versato un accidente, il discorso è quello, se frega la verba. Vabbè, io ho perso 89.000 euro, figurati tu, lavorando con un sai 12 anni, quindi... Poi io ti capisco, non è che non ti capisco. Già ti ho capito. Vabbè, a me io non ho sfruttato nessuno perché grazie a Dio non ero assicurato né niente, però a un certo punto, cioè, ci vuole un avvocato come si deve. Il problema sai cos'è? Che ti fa perdere tempo, lui non ci viene mai una volta che lo chiamano in tribunale, non ci viene mai, quindi non è il discorso che la cosa va in prescrizione, quindi se tu lo voglia o no, perdi lo stesso a me, capito? Come è successo con me. Una volta che arrivi a 10 anni, vai in prescrizione e ti attacchi a pupa, ti attacchi. Il discorso è solamente quello, come è capitato con me. Ci vuole non l'avvocato della UIL, CGL, eccetera, eccetera, che quelli non fanno proprio niente, sono pagati per lavorare con il cui, ci vuole un avvocato proprio fatto apposta per farti dare i soldi, poi basta. Poi del resto a quello può dire quello che vuole, io mi son pigliato i miei diritti, poi lui non me li ha pagati, peggio per lui, non c'è stato più. Il problema è solamente quello come è successo a me, che io abbiamo preso un avvocato della CGL e CGL, in pratica che ci ha rimesso solo io, ma lui è riuscito perché era assicurato a riscattarsi quei soldi lì, invece l'unico imbecille sono stato io che gli ho fatto la testimone, hai capito? Pensavo di aver fatto la cosa giusta, invece devo starmi zitto e pigliarmi un avvocato per i fatti miei. Forse qualcosa sarei riuscito a prendere, forse 20.000 euro, cosa ti posso dire, 50.000, quelli che so, anche se non avrei pigliato le 80, però siccome avevo pigliato quella della CGL, fu tutto. È andato in prescrizione e attaccati a Puppa Antonello. Allora era assicurato, capito, e quindi dice, denunciamo a cosa, al mio principale, eccetera, eccetera. Io in pratica come l'avevo denunciato, gli ho fatto testimone a lui, e il risultato che lui ha assicurato, io no. A me quello non mi è mai assicurato in vita mia. Quindi poi l'avvocato si è fatto comprare dall'altro avvocato che c'aveva usato, e io l'ho avuta dietro, perché tra la CGL e cose del genere sono tutti quanti, tutti ognuno per i fatti suoi. Non fare, cioè, non ti danno una mano, ti danno una mano solo alla, hai capito, all'imprenditore. Quindi come le fai l'imprenditore? Assumi e non assicuri a nessuno, stai tranquillo che stai bene. Beh, c'hai soldi, ma non è, io non credo. Allora se rimangono, se non mi ricordo male, rimancheranno se io ho 5 anni e lui è già in pensione, non hai capito. Lui se ne va in pensione da giovane, lui ha 60, 65 anni e lui è già in pensione. E se ne sbatte le balle, di me, di te e di tutti gli altri. Si tira la sua pensione e io invece mi sono ritirato a puppa. Avevo chi, quello che si è da cazzo, ok. Ginko. Ah, se non lo sento, dov'è? Non lo sento a Ginko mio, per niente, Anto. Che ne sto facendo, che mi ha fatto lasciare la sua azienda, quindi sto scusando un attimo, dimmi tutto, ma dimmi un po'. Niente, ho detto, ma lui è da Ginko, non lo ascolto per niente, nulla, manco se si ammazza. Una volta lo sentivo, adesso non lo sento più. Lui deve essere l'antenna sopra, come si chiama, l'albero. Non so, si mette la scala orizzontale e sale sopra l'ultimo ramo che c'è, col portatile. Io ti ho sentito già. Cazzo, non lo sento per niente, una volta lo sentivo. Anche se era 7 agosto e mezzo nove lo sentivo bene, adesso nulla. Proprio come se fosse morto, cazzo. Mi sa che è l'altra di appare che sta usando. Tu devi mettersi a posto quella di pigliarsi un barattino come si deve, ce ne sono tanti a poco prezzo. Se gli hai già messo l'antenna sotto il letto, non fai riparare già. E beh, tu ce l'hai vicino, io sono di qua distante, mi cazzo, la tenocia qui c'è una bella differenza. Aspetta un secondo che mi sta chiamando Simone. Disabile X assistenza pomeridiana notturna a Sassari, Sabrina Serra, non lo so chi è, ma stavo cercando un bandante, un abbandante, quello che è, se ti trovo 1300 euro sulle buone, Sassari aiuta si chiama, aspetta, regalo Cialde, ah, c'è uno che sta regalando Cialde per caffè, mi se ne vuoi, si chiama De Luis Garau, della Capitali, sono le cialde. Quindi se le prendi al volo mi te le vendi, ragazzi. Aspetta, questo da vivere, cerchiamo personale per lavorare con noi presso i nostri ristoranti: cuoco, lavapiatti, pizzaiolo, cameriere di sala, porta pizze. C'è scritto così, senza le aiuta, devi guardare, si chiama Alguer Mia, 3 febbraio 2023, che cazzo, siamo ammazzo, questa è la bavricchia, si appaga per lì. Questo è Emanuela Pulezza, cercasi per piccolo punto vendita dei prodotti alimentari con banco, salumi, formaggi e pane. Con sede a Sassari, la seguente figura con già esperienza in queste mansioni. Supportare il cliente, persona dinamica, eccetera, eccetera. Questo è di, mi sembra di oggi. Si chiama Emanuela Pulezza, 22 ore fa, quindi questa è da poco. Allora, data iscrizione Sassari Aiuta, 29 luglio 2022, quindi non c'è nessun problema. Mandali un messaggio, chissà che ti prenda, niente di strano. Si chiama Manuela Puletta, è scritta su Sassari Aiuta. C'è solo una persona che le ha risposto a me, ce ne sono altre, quindi... Provaci, niente di strano, magari ti posso apprendere. Antonelli? Sì. Sapere troppo questi fatti. QRM è molto ne hai. Ma noi non lo sappiamo. C'è un QRM pazzesco. Segnale 8 di QRM c'ho io. Ma cazzo, ma si sente così male. Oh, boh, non so cosa dirti. Un posatore di Firenze pure, cazzo, siamo andati bene, ragazzi. Manuela Puledda, Sassa di Aiuta, cerca posatori. Sasso Roberto Sasso, titolare di Ale Plast, premio parte, Alghero, ci occupiamo di Porto e Firenze da oltre 20 anni, cerchiamo operatori, eccetera, eccetera. Ogni QRM, segnale 8 qua. Com'è tutto questo QRM natalì? Rimane al calduccio, ho spento tutto e rimane al caldo, all'utto si magna. Meglio così, sono contento. Ah, che bellino, che contento, mino mio. Comunque mi hanno detto, Antonio, che questa radio è come i vecchi tempi, che è un bel forte. Beh, se avete il voto sì, perché così come si sente che sei strano, hai capito, di modulazione. Dove si sollevare il voto. Come sono strano? Sì, strano, si sente che c'hai neanche mezzo watt, me. C'hai, sembri che c'hai un cuscino e cose del genere. Solleva, la metti a 4 watt, 5 watt. Guarda così, 1, 2, 3, prova. Adesso cambia, lo vedi? Com'è la radio? Buona sempre. Adesso va bene, ma poco fa sembravi... Aspetta, ti faccio l'esempio, così te lo rendi conto, aspetta. Ora, 1, 2, 3, prova, come senti male, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. È più basso. A parte il fuscino che c'ho sotto, quello che volevo dire, mi caso solo con 0,5 watt, anzi, 0,5, ho picchiato 3, adesso prendo e salgo solo con 15, adesso sono con 40. Io sono con il watt del Galaxy, né più né meno. Va bene, lasciamo così, non toccare nulla, che va bene. La radio sembra ottima. La voglia che è ottima, ci mancherebbe. Io lo uso e basso, 10, 15, hai capito? Più che altro per far girare bene l'apparecchio, la volta era sempre 50 watt con le 80. Ogni 4 ore 20 minuti, cioè 4, dopo un'ora e mezzo in pratica a staccare l'apparato e controllare cioè, che non funzionasse la ventola, hai capito? E usavo il 2009, adesso tutti e due il 2009 c'era Giovanna, io andate a lei, c'è il Commerce 4000 il 2009 e quindi uso, io ho questo qui e l'altro 2009 con la vela sto usando. Stai usando quello che insomma 140 e 140 sto usando adesso, quello che mi ha oscillato due giorni, grazie, quello che ti ha oscillato due giorni dopo il 140 alle 3 del mattino, come la fa roba, grazie.